Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Anche noi disabili. Senti, sono Iorio, abito a Napoli, ho la libera circolazione nelle zone a traffico limitata, però mi sento un condannato agli arresti domiciliari, perché cammino per Napoli dappertutto, non mi liberamente, però non posso sostare in nessun posto, non c'è un posto per i disabili, me la tolgono sempre, però intanto io sono prigioniero, perché scendo, faccio il giro, vado lì, non trovo il posto, me la torno a casa un'altra volta, quindi io mi sento un prigioniero nella mia città. Oggi dedichiamo lo spazio di Melog alla rubrica Anche noi disabili. È inutile che ricordi il senso di questo, di questa particolare declinazione della nostra trasmissione. È un progetto che investe tutta Radio 24, si chiama Radio 24 Anche noi disabili. Assieme agli altri colleghi cerchiamo per quanto possibile di metterci a disposizione con la nostra capacità e possibilità e anche privilegio di poter arrivare comunque a sollecitare anche persone delle istituzioni, persone che comunque possono risolvere problemi riguardo a quelli che sono i mille inconvenienti quotidiani che può attraversare una persona con disabilità e la sua famiglia. Dirci anche noi disabili ci pone in una condizione di particolare empatia con chi ha questo problema. Non lo facciamo semplicemente come qualcosa che ci riguarda soltanto da lontano. No, nel momento in cui diciamo anche noi disabili ci caliamo totalmente nella condizione di chi deve comunque gestire un problema. Un problema che lo rende svantaggiato rispetto al resto dell'umanità, ma per cose banali, per cose quotidiane, per cose che riguardano la socialità, in alcuni casi, il potersi muovere nelle città, il poter avere pieno godimento dei propri diritti. Ricordo il numero verde 800 002400 per lasciarci i vostri messaggi in una casella, in una segreteria telefonica. 800 002400 è il numero per la segreteria telefonica. C'è anche una mailbox, anche noi disabili, @radio24.it. Ricordo, anche noi disabili, @radio24.it. Per quello che possiamo, per quello che riusciamo, siamo a vostra disposizione. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Mia madre, 86 anni, giudicata da una commissione di 7 medici nella sede dell'INPS di Sarezzo, ritenuta invalida al 100% ma senza diritto all'accompagno, perché è ancora in grado di lavarsi, vestirsi e pettinarsi. Nulla importa se cammina trascinando i piedi, se deve prendere pastiglie alle 8, alle 16, alle 17, alle 20 e 8 volte su 10 se ne scorda. Nessuna valutazione sull'abitazione in cui vive, se questa le permette di poter uscire. Ci chiama una mamma per farvi capire che il problema molte volte del disagio è condiviso, anzi assorbito quasi esclusivamente dalla famiglia, e nella famiglia poi le mamme sono il primo terminale riguardo a un problema che ha un figlio. Elisa, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io chiamo da Caserta, dalla provincia di Caserta, quindi dalla Campania. E volevo mettere un po' luce su questo problema che quest'anno si è presentato per i nostri ragazzi, quindi parlo a nome di un gruppo di genitori che abbiamo i figli che frequentano una scuola superiore. Che anni ha, che età hanno i vostri ragazzi? Eh beh, mio figlio, diciamo tutti i suoi 20 anni, ma grandi quindi? Piccoli, sì, grandi. E mio figlio per esempio ne ha 21 e frequenta felicemente, perché è tanto contento di andare a scuola, un istituto alberghiero che dista da casa una mezz'ora di automobile. Che problemi ha suo figlio, solo per inquadrare? Mio figlio sembra non parla, però si esprime affettivamente, un ragazzo diciamo tranquillo, quindi molto socievole. Quindi è un problema di relazione. Cioè, il suo bisogno principale al momento è quello di relazionarsi, di avere degli amici, quindi di andare a scuola, perché lì trova ciò che a lui serve. Mi scusi se insisto, perché non tutti quelli che ascoltano poi hanno esatta cognizione di cos'è lo spettro grossissimo delle varie disabilità. Il suo figlio è un ragazzo che cammina, si muove, vede, ha manualità. I suoi problemi sono nella sfera della relazione e della comunicazione. Certo, non parla, cioè diciamo va a scuola, ecco, un istituto alberghiero, però ecco non scrive, sì, beh, certo. C'ha tanti altri problemi. Il ecco, problema però... relazionale molte volte è anche accompagnato da un problema cognitivo, quindi ha bisogno di essere aiutato più degli altri. Certo. Però una scuola alberghiera può fare benissimo, sì, il mestiere dell'operatore alberghiero se si impegna. Certo. Sì, infatti lui... cioè, per lui è importantissima frequentare questa scuola. A lui piace farlo, ci va volentieri. Sì, moltissimo. Cioè, sì, è una cosa indispensabile. Infatti, purtroppo, prima o poi, un altro anno ancora potrà frequentare, ma poi dovrà... È già oltre il tempo massimo, diciamo. Certo, cioè, abbiamo già gliel'hanno tenuto molto. Sì, gliel'hanno tenuto, perché non abbiamo fretta, Nicoletti, non abbiamo fretta di finire. Sfonda porte aperte, come lei ben sa. Finché c'è qualcuno che riesce comunque a prolungare, bocciando un anno, a tenere un figlio anche in più. Di più, anche perché poi ha cambiato anche compagni di classe, giustamente, perché i suoi coetanei ormai sono belli a lavorare. Insomma. Però dobbiamo spiegarlo a chi ci ascolta. Certo. Per un ragazzo come suo figlio, e in fondo anche come mio figlio, il problema è che interrompere questa loro felice routine, cioè che la mattina hanno un impegno, sì, significa fargli crollare addosso la vita all'improvviso, perché non saprebbero esatto. come compensare questa mancanza. Non ci pensiamo. Non so come esprimerlo a parole, insomma, è una necessità vitale. Sì, non so come dirlo. Ne va della vita, no, ma l'ha detto esattamente, perché, necessità vitale, non sì, vive altrimenti. Io sono anche, cioè, ho anche un certo pudore a parlare di mio figlio, ancora adesso non sono abituata a mettere in piazza, diciamo. In piazza, però deve abituarsi che le cose vanno comunicate, perché sono i problemi si risolvano. Esatto, sì, poi con lei, insomma... Trovo chi la capisce sì esatto è proprio così. Vabbè, diciamo quest'anno ancora quest'anno è quasi finito, lei c'ha davanti un altro anno, riuscirà a mandarlo a scuola un altro anno? Sì questo vabbè, sì, intanto nel frattempo potrebbe studiare prossimo. Con gli altri genitori delle soluzioni alternative. Sì, lo sto già facendo, ma sinceramente sono un po' avvilita, però anche perché qui insomma non so se è una questione di geografica di dove ci troviamo, comunque sono un po' avvilita, ecco. Guardi, è una situazione gli aguzzini sono tanti gli aguzzini, guardi, anche le associazioni quelle che si dicono che sono a disposizione, insomma, poi alla fine diventa purtroppo è un settore talmente debole quello della disabilità che anche volerne parlare a volte diventa una sorta di sfruttamento. Però se posso dirlo, se ha un senso sì. Questa trasmissione è il più possibile occorre parlarne. Parlandole si risolve il problema, o perlomeno ci si avvia una soluzione al problema. Se le cose rimangono chiuse nelle famiglie, nessuno vi toglierà, certo, ci toglierà le patate bollenti dal fuoco. Ma non, ecco, che non, parlarne sì, ma non lamentarsi. Vabbè, andiamo al punto, vediamo se c'è un problema pratico sì, intanto. Esatto. Allora, il problema pratico è che quest'anno, per mio figlio del secondo anno, l'anno scorso ho soffritto parzialmente di un servizio di trasporto scolastico per disabili. Ed è stata una mamma per me, perché chiaramente il problema principale di mio figlio è che è molto legato a me, quindi c'è una sorta di dipendenza. E chiaramente questa cosa non è che mi fa star bene. Dovrà lavorarci anche, io non sono un esperto, però sa certo. che i figli ci sopravvivono, allora, quindi i prima figli gli sopravvivono, esatto, e io voglio dire, vorrei anche, ma anche... mi può succedere qualsiasi cosa, a parte avere anche degli impegni miei personali che ho dovuto comunque tralasciare in tutto quindi il problema tempo. Qual è? Il trasporto scolastico? Il trasporto scolastico che quest'anno invece si è avviato per sempre a metà ottobre, ed è stato sia per l'andata che il ritorno. Mio figlio quindi aveva un autista, un assistente che lo venivano a prendere a casa, come è giusto che sia, come è suo diritto, penso. Sì, vabbè, non veramente è il secondo anno, quindi ho sempre accompagnato io, però insomma ho fatto domanda e mi hanno mandato. Adesso non entriamo nei meriti del. Vabbè, comunque la ce l'ha adesso, c'è qualcosa. No, non ce l'ho. Allora, dopo le feste di Natale, dopo il primo, cioè quando si ritorna a scuola dopo Natale, il 7 di gennaio la scuola ci avvisa che non ci sarà questo servizio. Adesso, vabbè, intanto noi genitori ci informiamo un po' presso la provincia, perché al momento il servizio era della provincia. Se ne occupava la provincia. Se ne occupava la sua provincia. E la provincia ci fa sapere che, così come è previsto dalla legge di stabilità, dal primo gennaio il servizio diventava di competenza della regione. Quindi se ne lavavano le mani, non era più roba esatto. loro. Allora noi chiaramente che facciamo? Parliamo con la regione, col direttore generale. La dottoressa responsabile, e si dice vabbè, c'è bisogno di un po' di tempo. Beh, questo po' di tempo al momento siamo ancora senza una soluzione, insomma, del problema, perché il servizio non è attivo. Cioè sono 3 mesi che non avete il servizio? No, ma noi non abbiamo chiesto altro che avere delle informazioni precise in modo che ci possiamo organizzare, perché voglio dire, potevamo trovare un altro sistema per accompagnare questi ragazzi, insomma, se non ci sono fondi, insomma, non ci è dato sapere nulla. Quindi è un problema della regione Campania che dovrebbe darvi una risposta, come ripristinare questo servizio. Quanti ragazzi siete? Quanti ragazzi sono che si sono trovati senza accompagnare? Io mi trovo a che fare con una decina di famiglie, quindi di ragazzi. Ma penso che per tutta la provincia sarà un problema. Saranno molto di più, certo, molto di più. Anche ragazzi che frequentano anche l'ultimo anno dovranno anche sostenere gli esami e alcuni di loro non possono andare a scuola. Insomma, a parte il fatto che c'è il diritto costituzionale allo studio, insomma, che viene meno in questo caso, viene negato. E poi in più il fatto pratico che non trova una soluzione al momento, perché la cosa, diciamo, ridicola e anche offensiva, perché noi parliamo con la provincia, perché poi si sono vicendati più di un politico, insomma, che si è fatto appunto fare l'intermediario, si è fatto portavoce delle nostre difficoltà. Cioè mantiene ancora un legame con voi, chi se ne occupava prima, per aiutarvi nel per passaggio. Aiutarci, però in verità mi è sembrato tanto un voler cercare visibilità, perché poi in realtà non raccoglieva informazioni di più di quante ne avete voi in possesso. Anzi, ma il vostro interlocutore, che è la regione, alla fine non si è sentito pressato dalla vostra esigenza? Assolutamente no, perché diceva sempre le stesse cose. Ogni volta che parlavo diceva: no, vabbè, la regione ha messo per iscritto ha invitato la provincia a continuare il servizio. Se la rimpallano di provincia a regione? Esatto, proprio un ping pong. Vado alla provincia, la provincia mi dice: no, noi abbiamo chiesto noi di continuare il servizio, è solo che loro ci devono dare l'ok anche fornendoci i fondi, cioè, che sono stati... Quindi fanno, diciamo, il gioco delle 3 carte, perché sì, nessuno vuol tirare fuori i soldi, ecco. Ma io questo non lo capisco, perché se un servizio è messo in bilancio, cioè se c'è la voce in bilancio, questo servizio deve essere garantito. No, la cosa che stringe il cuore. Poi un'altra cosa, non è pure stupida, ecco, mi viene detto, perché è stato fatto l'errore, cioè, ma queste parole, è stato fatto l'errore di interpretare l'anno solare. Il servizio quindi terminava con l'anno solare e non con l'anno scolastico. Cioè la scuola però mica finisce a dicembre. Quindi non mi sembra stupido. Cioè io che cosa posso rispondere? Sì, io posso darle voce e possiamo, se possibile, cercare, no, ci comunicherà lei, a parte l'interlocutore, lo chiameremo a rispondere su questa cosa. Troviamo che sia abbastanza deprimente il fatto che in questo gioco di rimpiattino fra le istituzioni, che sembra tanto, ripeto, il gioco delle 3 carte, non se ne conto del fatto che in realtà il tempo passa. 3 mesi, 4 mesi, alla fine metà dell'anno scolastico per dei ragazzi disabili passato in disagio, vuol dire aver passato 6 mesi d'inferno. D'inferno loro, d'inferno le loro famiglie. Non è una banalità, non è un semplice gioco, non è qualcosa che può aspettare, è qualcosa di radicalmente vissuto sulla sofferenza di alcune persone. Chissà se questo basterà a convincere i nostri burocrati che probabilmente il sistema per aggiustarci c'è sicuramente, la via d'uscita c'è sicuramente, sicuramente la burocrazia improvvisamente, quando si muovono persone importanti e potenti, trova immediatamente la via d'uscita. In questo caso evidentemente la disabilità di un gruppo di ragazzi della provincia di Caserta non è motivo sufficiente perché il grande mastodonte burocratico si muova. Intanto saluto Elisa, do appuntamento a qualche istante dopo le informazioni della borsa per vedere un altro caso. Sa una da Ciro a Cocoruno, basta la numero, dimmi la loro mano, vanno pure a Ciro. Il problema non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina, sul sito di Radio 24, o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira, ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Vedo che oggi è la giornata delle madri e delle madri con ragazzi con una particolare difficoltà. Mi sembra che... Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è credo il suo problema? Credo che stia toccando dei tasti, sto toccando dei tasti con il telefonino, penso. No, adesso non sente nulla, grazie a Dio. Ok, buongiorno. È passato il pericolo. È passato il pericolo. Allora, lei ha un figlio di 23 anni. Sì, sì, esattamente. C'ha 23 anni. Che problema ha suo figlio? Allora, lui, come vi ho scritto già nella lettera, è un portatore di Asperger. Però fortunatamente diciamo non è proprio un grave portatore di Vabbè, diciamo che è uno spettro molto vasto. Ci sono dei problemi sulla relazione, sull'interpretare i segnali che vengono sulla relazione da due, sulla relazione a due. E lui comunque io più che altro, come ho scritto nella lettera, volevo farvi sapere che c'è un progetto in essere presso il Conservatorio di Santa Cecilia, dopo tanta fatica, e spero che venga attuato al più presto. Il problema ovviamente adesso è solo lo stanziare questi soldi, per poi rendere proprio, perché ci sarà un bando pubblico, credo, anzi non credo, ne sono sicura. Ma perché questo. Suo figlio è interessato a questa cosa? Vediamo di cucirla allora, sulla sua perché esperienza. Perché praticamente mio figlio, da quando aveva l'età di 3 anni e mezzo, anche 4, ha cominciato a cantare prima che a parlare. E quindi cantando, all'epoca noi andavamo al Bambin Gesù, dove c'era il neuropsichiatra infantile, che adesso non c'è più, che oramai è morto, il grande Bollea, e disse che appunto il ragazzino aveva esprimeva diciamo le sue sensazioni tramite il canto, tramite la musica. E comunque ha trovato un canale di comunicazione, canale che era quello del cantare e del suonare. Bravissimo. E questo praticamente poi noi lo ha coltivato negli anni, l'abbiamo coltivato, cioè lo ha coltivato negli anni, perché è andato prima a scuole private e dopodiché l'anno, 2 anni fa, dopo aver preso la maturità, venne chiamato abbiamo saputo che presso il Conservatorio di Frosinone c'era un progetto in essere proprio per i ragazzi portatori di Asperger, e siamo andati lì e il vecchio direttore ci ha accolto a braccia aperte e lui ha fatto parte per un anno di questo progetto. Ma suo figlio già faceva concerti, suonava in pubblico? Ha fatto sì, anche nei pub, guardi, perché io ho una mia carissima amica che ha un pub e lui più di una volta con la scuola di musica dove andava ha fatto questi concerti. Quindi sia intrattiene gli altri ragazzi che vanno nei pub, sia fa concerti. Sì, è un artista eclettico. Eclettico, bravo. E però poi dopo, diciamo l'anno scorso, l'altro direttore, che era subentrato al vecchio del Conservatorio di Frosinone, non ha voluto più sostenere questo progetto, perché diceva che i nostri ragazzi non erano normodotati, quindi probabilmente beh, questo, lui aveva questo paura. È come dire, è chiaro che non erano normodotati, se no non avrebbero un problema. Era molto chiara questa cosa, quindi non c'era bisogno che lui... Ma questo vuol dire, mica può discriminare una persona perché se non è... Ma così ha fatto, quindi questo progetto lì non è stato più fatto perché lui non aveva nessunissima intenzione di far entrare questi ragazzi portatori... Non voleva più prendersi l'onere di gestire un problema. Assolutamente no. Non sono cose che rendono le persone migliori, sicuramente. No, vabbè, assolutamente no. Probabilmente l'ha fatto nell'ambito delle sue possibilità di deciderlo, non ha compiuto reati, brutto, ma però, poter scegliere. Sì. No. E comunque diciamo questi ragazzi hanno ricevuto questa bella porta in faccia. E io però non mi sono arresa e nel... Comunque al Conservatorio di Frosinone c'era aperto un progetto con ragazzi Asperger che comunque... Sì, sì, sì, era aperto, però era valido solo per un anno. Quindi che cosa è successo? Che diciamo, ha funzionato bene, ha dato problemi, ha creato problemi? Assolutamente no, né lui né tantomeno gli altri ragazzi. C'era solamente un ragazzo in più che suonava la batteria, che aveva avuto qualche problemino. Ma diciamo, chi conosce questa problematica sapeva benissimo come poteva diciamo venire incontro, andare incontro a questo ragazzo. Sì, ma la cosa vorrei far passare, signora, che i problemi che hanno i suoi figli, suo figlio, i suoi amici, non sono problemi di unica gestione della famiglia, cioè figlio tuo gestiscilo te. No, sono problemi che è tutta la società deve farsene carico, in parte, non dico bravissimo, totalmente, ma in piccola parte. Il direttore di un conservatorio probabilmente ha strumenti legge per decidere se farlo o no, però non è... È una chiusura che non fa bene generalmente anche allo stesso iter degli altri suoi allievi, quelli bravi, quelli con i quattro quarti di sensi tutti a posto. Bravissimo. Contaminarsi con delle diversità è sempre una bella scuola contro tutti. No, guardi, io poi devo dire la verità, lì c'era un grandissimo professore di orchestra che mi disse che mio figlio, parlo nel caso di mio figlio ovviamente, aveva l'orecchio assoluto, cosa che è molto rara e poteva addirittura dirigere un'orchestra perché lui... Paradossalmente, lo sa che è la seconda madre di un ragazzo Asperger che mi dice, l'altra volta un padre, che ha un figlio... Asperger con l'orecchio assoluto, evidentemente è una caratteristica, l'orecchio assoluto è fantastico, è riuscire a percepire le note anche se cade una penna, sapere che nota è, vuol dire sentire, vedere la musica e avercela dentro. Sicuramente, guardi, perché lui, le faccio un altro piccolo esempio, magari, che ne so, sente ascolta un pezzo, diciamo, al pianoforte e dopo lo rifà senza assolutamente Lo so. È un'esperienza, quindi... devo dire, fantastica parlare con una persona che ha l'orecchio assoluto, perché la musica è come se lui la vedesse sempre presente. Non so come spiegarlo. Io tra l'altro, che sono la madre, quando lo vedo sul palco penso sempre quello non è mio figlio, perché io ho, diciamo, tra virgolette, credo di avere una bella faccia tosta, ma sinceramente trovarmi a cantare davanti a un pubblico molto vasto, o comunque anche solo a parlare, sarei un po' così, avrei un po' paura, diciamo, no? Invece lui, quando sta sul palco, canta o suona, ci può stare anche uno stadio intero. Diciamo che quello è il canale aperto verso il mondo, il suo. Sì, quindi suo figlio avrebbe delle chance di avere un'attività gratificante. Direi proprio di sì. E quindi lei cosa si vuole inventare adesso? Guardi, io praticamente tramite, poi le dicevo appunto, presso il Conservatorio di Frosinone ho avuto la fortuna di incontrare l'onorevole Bianchi. Adesso non facciamo le cose agli onorevoli. Sì, la conosco, Daniela Bianchi, sì, è una che si Daniela impegna. Bianchi, sì. ha avuto praticamente la fantastica idea di mettersi insieme, cioè di tramite la mia esperienza e quella di altre mamme, di fare un progetto proprio per questi ragazzi per quanto riguarda la musica, per farli entrare nel conservatorio. E questa cosa ha funzionato questo progetto? Questa cosa praticamente, il progetto è tutto fatto. È, tutto è un consigliere regionale, quindi fa parte diciamo anche dei suoi compiti di occuparsi. Bravissimo, di questo. Ecco, è tutto fatto, è tutto finito, il problema è che come al solito non vengono stanziati questi soldi, o comunque ci sta aspettando che verranno stanziati questi soldi, perché mio figlio, io... Lo devo dire perché, guardi, poi alla fine è così, cioè io ho trovato anche un direttore lì al Santa Cecilia, al Conservatorio di Santa Cecilia, che è una persona eccezionale, e anche se il progetto ancora non è attivo, perché stiamo aspettando appunto questo finanziamento, ma fa andare mio figlio, ha fatto conoscere una professoressa di canto, una maestra appunto di canto e di pianoforte, e lui quando c'è questa professoressa lui va. Può vedere la differenza di atteggiamento? Lei mi ha fatto due esempi di una persona che per principio, e non posso solamente fargliene nessun torto, poi sono scelte personali, è per la chiusura, dice queste cose, una cosa in più, io non posso gestire cose in più. Un'altra persona che in realtà in attesa che si concretizzi e segua un progetto, tutte le vie istituzionali giuste, un progetto deve essere finanziato, bisogna trovare i soldi, sono momenti difficili, però già lui si è adoperato su uno spirito di iniziativa personale perché suo figlio comunque, anche se in piccola parte, abbia già la gratificazione dell'accoglienza in qualche maniera, accolto. Ma anche perché devo dire che lui, da buon conoscitore ovviamente, l'ha sentito, l'ha fatto suonare nel suo ufficio e anche cantare, e mi ha detto: signore, è un peccato tenerla a casa, lo faccio venire comunque, anche se c'è o no in essere il progetto, perché io vorrei che lui frequentasse i corsi come tutti i ragazzi e come giusto che sia. Ha capito che suo figlio è un buon investimento, non è un peso, non è un onere, ma è un affare prenderselo. Quindi... mi ha chiamato e mi ha detto: guardi, non lo lascio assolutamente a casa, io per adesso le faccio conoscere ad Alessio questa professoressa di canto e di pianoforte, e poi dopo appena si avrà. Ma veramente lui voleva addirittura che noi, come succede, no? Dotati, pagassimo la retta e fare entrare comunque Alessio. È stata bloccata questa cosa perché anche lui ci teneva molto a questo progetto e voleva prendere Alessio, diciamo, come esempio o inizio di una nuova avventura per questi ragazzi, perché io mi sono battuta in tutti questi 23 anni proprio perché questi ragazzi non siano considerati come, anche se sono non normodotati, ma hanno altre doti, e chi ha un ragazzo Asperger sa di che cosa sto parlando. Però mi sembrava di, adesso, visto che questa è una situazione che è in fieri, non è proprio una di quelle situazioni su cui c'è da intervenire, c'è solo da sperare, visto che tutto che è in mano a un consigliere regionale, c'è buona disponibilità da parte del direttore del conservatorio, siamo ottimisti e pensiamo che la cosa possa avere un lieto fine. Mi serve soltanto per far riflettere chi ci ascolta, magari è lontano dal vivere sulla propria pelle questo problema, che esistono due maniere, due atteggiamenti diversi: un atteggiamento propositivo, attivo, che comunque mette la buona volontà e il desiderio che la cosa si possa compiere felicemente, che è quello di quest'ultimo direttore di conservatorio. Un atteggiamento probabilmente è nelle maglie della legge, quindi assolutamente non censurabile, che però parte da un principio di chiusura. A me interessano solo le persone che sono complete nei loro quattro quarti di umanità e non hanno nessun tipo di problema, perché naturalmente è più facile gestirle. Le difficoltà fanno parte comunque di un'apertura diversa nei confronti del mondo. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Volevo segnalare che nel comune dove abito io, Quarrata, vicino, di lato o davanti al posto riservato per i disabili, è stato messo un cartello dove con questa scritta: se vuoi il mio posto, prendi il mio handicap. Consiglierei magari di adottare lo stesso metodo anche per altre municipalità e magari di dotare di una piccola telecamera, perché sono molte le persone che non rispettano il posto riservato ai disabili. Mi fa piacere che al nostro appello, ma poi appello mi sa tanto di cosa benefica, noi non siamo qui perché ci sentiamo la vocazione di essere Santa Teresa da Calcutta, siamo persone piene di problemi, piene di difetti e piene di limiti. Ci piace una volta fare qualcosa controcorrente. Un ambito che da tutti è calcato o sul solco del pietismo, sul solco della sentiamoci buoni, o sul solco facciamo una cosa una volta ogni tanto perché così almeno ci mettiamo la coscienza a posto. Noi lo facciamo con una certa regolarità, lo facciamo come se fosse una delle caratteristiche fondamentali della nostra professione, di dare ascolto comunque a questa fetta all'umanità con più problemi. Dico, mi fa piacere che fra le tante persone che ci chiamano non sono soltanto quelle che vivono il problema sulla pelle, ma quelle che si ingegnano di essere anche loro utili, dare un contributo come facciamo noi, e si sentono anche loro disabili. Buongiorno Nicola. Buongiorno dottor Nicoletti. Quindi Nicola, oggi anche lei è disabile. Vediamo dal suo punto di vista, di disabile e non disabile però. Qual è la proposta? No, perché ci ha chiamato innanzitutto? Io faccio una pressione perché l'altra settimana c'era la sua trasmissione riguardo alla possibilità di accedere nei luoghi, nei centri storici, che i disabili dovevano prima prenotarsi, segnalare quando dovevano andare. Tutti i sì, è un tema, lo ricordo, sì, un tema su cui stiamo lavorando, sì, e torneremo. Si sta creando, l'ACI sta pensando di fare una sorta di registro unico di tutte le automobili con permesso per disabili, in modo che quando si muove come suo diritto un disabile non debba ogni volta che entra in un comune diverso dal suo e quindi non è registrata la sua targa chiamare i vigili, chiamare il comune, dire entro, non mi fate la multa se entro nel centro storico, se parcheggio e via dicendo. È qualcosa che la tecnologia ha servizio comunque la diversità. Lei invece qual è la sua proposta? La riflessione che facevo io era questa, che di domenica, ma anche negli altri giorni festivi, gli erogatori di carburanti sono quasi tutti self-service. O anche la sera dopo l'orario di chiusura. O anche la sera dopo una certa ora, ecco, esatto. Lei dove abita, Nicola? Io abito a Galluccio, in provincia di Caserta, un paesino della provincia di Caserta. Ecco, lo sa perché i romani non sentono molto questo problema, perché se allontana il benzinaio e chiude il distributore, arriva subito un signore del Bangladesh che si mette lì con la seggiolina. Ma io lo so perché c'è mio figlio che è a Roma, lì fa il medico lì, e quindi mi vedo, non ho problemi a Roma, non ho problemi, sì. Ma io dico, la persona ovviamente portatore di handicap, nel momento in cui deve uscire, mi rendo conto, dal mio paese o dalla mia città e avventurarsi per un viaggio, deve sapere qual è la colonnina dove, ma se no come fa, dice, come, se ha bisogno di benzina e non è sull'autostrada, esatto, deve andare solo sull'autostrada, come fa, dire? Se il distributore è chiuso, diciamo, esatto, e non sono presidiati tutti come sono a Roma, esatto, nelle grandi non città sono presidiati, e c'è un grosso problema per una persona portatore di handicap, lui è limitato nella sua autonomia, anche diciamo il presidio di cui ho parlato io non è una cosa ufficiale, legale, è una cosa che ormai rientra nella tradizione, la sappiamo. Così, diciamo, è quelle sorte di economie marginali, qui in fondo al benzinaio fa quasi comodo perché almeno è sicuro che non ci sono problemi. Dare 50 centesimi, un euro in più, per molti preferibile a sporcarsi le mani di gasolio o di benzina, e delle persone su questo vivono, è un'economia residuale. Anche se i proprietari di pompa di benzina mi dicono guadagna più lui che io, perché ogni pieno guadagna un euro e quindi non lo prende nemmeno il benzinaio, un euro su 20-30 euro di benzina. Comunque, detto questo, lei cosa proporrebbe? Ma io proponevo che, così come si fa per le farmacie di turno, adesso attraverso internet, attraverso tutti i canali di comunicazione possibili, visto che ce ne sono tanti nella nostra epoca, stabilire area per area, diciamo, una mappa dei distributori presidiati dove la persona può attingere notizie e organizzarsi per la sua gita, per il suo viaggio di piacere o di dovere o di necessità. Quindi lei propone quasi una start-up per studiare un'applicazione che dia visibilità delle pompe di benzina presidiate, aperte, nelle città in cui non c'è questo servizio abusivo ma utile a volte, capito? Per le persone che girano con un'automobile, che hanno difficoltà nello scendere e risalire dalla macchina, che avrebbero dei problemi. Come è venuta in mente però questa cosa? Perché è ammirevole come idea che venga una persona che non soffre il problema. Guardi, io ho fatto per tanti anni, per 43 anni, secondo il dirigente di una struttura complessa di Poste Italiane, mi sono confrontato anche con la progettazione dell'abolizione delle barriere architettoniche per consentire la fruibilità dei nostri servizi, dei nostri uffici ai disabili. Poi adesso ultimamente sono cultore della materia di pedagogia sociale della famiglia presso l'Università Italiana, quindi mi occupo, ho questa, diciamo, inclinazione per il sociale, quindi vedo tutti i limiti, cerco di vedere dal mio punto di vista quali sono i limiti per fruire nella maniera migliore qualitativamente autonoma i servizi che sono a disposizione di tutti i cittadini. E quindi mi è venuto in mente questa cosa, ma se io fossi disabile, perché oggi sono normodotato, ma domani potrei essere disabile. Vabbè, questo non glielo auguriamo, le auguro di camminare con le sue gambe fino a che avrà vita e avrà fiato per camminare. Però mi fa molto piacere, è un segno positivo, un segno che mi dà gioia e speranza, immaginare ci siano persone che fanno di una delle vocazioni della propria vita occuparsi anche dei problemi di chi ha maggiore difficoltà. La proposta di Nicola non è per niente peregrina. Troverei difficile cambiare le turnazioni, perché so che sono dei meccanismi complessi e difficili nelle città, ma qualcuno, tra tanti ragazzi, tante persone che vivono e immaginano e costruiscono start-up, portano idee, fare l'applicazione per disabili delle pompe di benzina con presidio, secondo me potrebbe essere un'idea utile, e se qualcuno la propone saremo qui per divulgarla e per farla conoscere a chi poi potrebbe finanziarla. Alla prossima, grazie.